Buonasera a tutti, inizia Zardis Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla Retribution dei Behind Enemy Lines, sigla d'apertura del programma Zardis Magnetics, che ovviamente inizia ora fino alle 21.30. Siamo in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Volevo anche ricordare che siamo in streaming e che comunque potete riascoltare tutta la trasmissione sul blog zardismagneticsradio.noblog.org. Ma andiamo all'ascolto e presentazione di questo, del prossimo disco, che è una band di Forlì. Loro sono Le Tormenta, e da un loro 7 pollici datato 2007 che si chiama Resest, appunto ascoltiamo almeno due brani, perché ce ne sono solamente due per lato in questo 7 pollici, e Le Tormenta. Guarda quel gatto, sta facendo una cosa che pochi possono vedere. Sì, un saluto anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics, appunto programma così curato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste, e saluto anche non solo le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in diretta appunto sulle frequenze di Radio Onde Furlane, ma anche le compagne e compagni che ci ascolteranno domani su Radiazione. E poi tutti quelli che appunto ci ascolteranno anche magari nei prossimi giorni con comodo, quando vorranno, in podcast. E allora, come primo argomento, stasera presenteremo un'iniziativa che si svolgerà a Milano il 19 di novembre, e sabato 19 novembre, un'iniziativa, un presidio in solidarietà con i prigionieri palestinesi e con i prigionieri che in Italia sono in lotta contro il 41 bis. Questa iniziativa è organizzata dal Collettivo contro la Repressione per un Soccorso Rosso Internazionale insieme alla Panetteria Occupata. Sì, tra le varie cose, questo presidio ricorderà anche la lunghissima detenzione, insomma è anche un presidio in solidarietà con Georges Ibrahim Abdallah, prigioniero politico appunto libanese, che è prigioniero in Francia proprio perché, anche se dovrebbe essere già stato liberato, ma poiché non accetta di compiere una biura, insomma non viene liberato. E allora tra un po' possiamo parlare, appunto, abbiamo invitato un compagno di Milano a parlare dell'iniziativa e mi sembra che potrebbe già essere in onda. E ci sei? Ciao. Ciao, benvenuto a Zardins Magnetics. Grazie. Ciao. Allora, io solo introdotto, ho detto che stasera parleremo di questo presidio solidale con i prigionieri palestinesi e con i prigionieri che in Italia lottano contro il 41 bis, sì, che ci sarà a Milano il prossimo sabato. Sì, ok. Se vuoi così approfondire un po' la questione. Sì, posso incominciare? Certo. Ok. Ciao, sono un compagno del collettivo contro la repressione per un soccorso internazionale. E innanzitutto ringrazio la radio e la trasmissione per l'ospitalità. E il 19 novembre, sabato, alle 15.30, abbiamo organizzato come collettivo, insieme alla panetteria occupata, questo presidio a Milano, che è di solidarietà ai prigionieri palestinesi, ai prigionieri italiani in lotta contro il 41 bis e in generale in solidarietà con tutti i prigionieri rivoluzionari in tutto il mondo. Certo. E il presidio è stato organizzato in una strada, in una via di Milano, non a caso, non è stata scelta a caso, perché questa via, che si chiama Via Padova, sì, è una strada in un quartiere molto molto popolare, uh-huh, ed è caratterizzato dalla presenza, abitano tantissimi immigrati, la stragrande maggioranza sono immigrati, in particolare anche magrebini, medio orientali, uh-huh, e comunque di tantissime nazionalità. E tradizionalmente abbiamo individuato questa zona, questo quartiere, per numerose attività anche in passato, di mobilitazioni in sostegno dei prigionieri palestinesi, e abbiamo notato sempre un certo riscontro sia durante gli attacchinaggi di propaganda in preparazione di queste iniziative e chiaramente anche durante le iniziative stesse. Quindi non è un posto diciamo scelto a caso. Certo. Quindi è un contesto popolare, sì, anche diciamo solidale istintivamente. Sì, mm-hmm, fortemente, fortemente popolare, e si può avvertire un certo riscontro di solidarietà, mm-hmm, soprattutto rispetto chiaramente ai prigionieri palestinesi, alla lotta del popolo palestinese. Certo. Mm-hmm. E il presidio era stato indetto inizialmente, poi è stato spostato come data perché il 25 settembre, sì, c'è stato una decisione da parte di numerosi prigionieri palestinesi di effettuare una lotta tramite lo sciopero della fame, sì, contro la legge della detenzione amministrativa. Sì, che è interessante. Cos'è? Infatti, esatto, se ce ne cos'è parli, questa, sì, legge? Sì, questa legge della detenzione amministrativa, detto molto in sintesi, è questa: senza nessuna accusa, senza nessun processo, le autorità israeliane possono arrestare delle persone e non comunicargli mai il motivo, mm-hmm, dell'arresto, mm-hmm, quindi senza comunicare l'accusa, e neanche all'avvocato possono dirlo. E incomincia a essere questa detenzione amministrativa una pratica molto diffusa lì. Diciamo che già nel 2012, sì, c'era stata una lotta molto forte che aveva interessato circa 2000 prigionieri palestinesi, sì, sempre per l'obiettivo della fine della detenzione amministrativa. E sono i servizi segreti israeliani che stabiliscono delle accuse, chiaramente sono segrete, e hanno questa facoltà quindi di effettuare queste operazioni repressive. E il movimento dei prigionieri palestinesi ha una lunga storia. Chiariamo una cosa: che la lotta dei prigionieri palestinesi ha inizi già nella fine degli anni 60, I primi scioperi dei prigionieri, sì, sono stati nel 68 e nel 1970 contro le condizioni carcerarie, uh-huh, contro i pestaggi, contro tutta la situazione che loro vivevano in quegli anni, e sono stati sempre via via durante tutto il corso di tutti questi anni sempre mobilitazioni molto, molto forti da parte dei prigionieri. Venendo agli anni più recenti, nel 2012 e nel 2017, sì, proprio contro la detenzione amministrativa, sono stati effettuati degli scioperi della fame e delle lotte molto, molto diffuse. Teniamo presente che la detenzione amministrativa parte da 6 mesi, no? Sì. Di detenzione, ma è indefinita, quindi sì, può, sì, essere prorogata di 6 mesi in 6 mesi. Senza limite, diciamo. Senza limite, cioè si condannati a 6 mesi, poi si viene prorogati altri 6 mesi e così via, e loro hanno la facoltà, le autorità israeliane hanno la facoltà di a tempo illimitato di prorogarlo. Certo. E ci sono prigionieri come quelli che hanno fatto, cominciato lo sciopero della fame il 25 settembre, che in 30 prigionieri hanno accumulato circa 200 anni di detenzione amministrativa in totale. Mm-hmm. Quindi una cifra veramente, insomma, mostruosa, cospicua. Mm-hmm. Esatto. E anche in quest'occasione utilizzano la tattica di scioperi a staffetta, a rotazione, sì, quindi in detenzione amministrativa attualmente ci sono circa 750 prigionieri, sì, il totale dei prigionieri palestinesi è 4.650 per l'esattezza in questo momento. E parliamo di prigionieri politici, questa cifra? Sì, allora, sì, sono prigionieri politici, però è chiaro che per il tipo di lotta, sì, che viene effettuata di liberazione contro l'entità sionista, sì, ci sono sia le avanguardie combattenti, sia i militanti armati, sia anche fette della diciamo della popolazione, mm-hmm, che sono impegnati nella lotta. E di questi 4.650 prigionieri, la maggior parte è da più di 20 anni in carcere. Sì, sì. Invece chiaramente i prigionieri in detenzione amministrativa sono circa 780, mm-hmm, hanno raggiunto anche quote tipo 1200, che so, nel 2017 erano, sì, circa, sì, 1200, però appunto sono varia molto il numero, perché con questo sistema repressivo in continuazione vengono arrestati, alcuni vengono rilasciati, la maggior parte, c'è sempre questa proroga che, come ho detto prima, è indefinita, quindi, certo, il numero, diciamo, è chiaro che è un po' fluttuante. Ma tra l'altro, comunque, viene utilizzata, sì, la detenzione amministrativa anche per colpire, diciamo, non lo so, attivisti, per così dire, anche attivisti dei diritti umani, no? Cioè anche, sì, persone, sì, che magari hanno una radicalità relativa, diciamo, della lotta politica. Sì, sì, diciamo che gli studenti anche molto, no? Per la verità, poi lì vengono arrestati anche i bambini. Sì, quello anche è, infatti, ci sono diversi, sì, minorenni, minorenni, ma sto parlando di ragazzini di 13-14 anni, sì, 14, sì, esatto, anni, sì, sì, che vengono arrestati. Alcuni sono anche in o per l'intifada vengono arrestati, mm-hmm, perché nelle lotte di strada, oppure anche comunque con la detenzione amministrativa, sì, e un po' sì, a 360 gradi. E, la cosa che appunto stavo dicendo prima, quindi, che c'è questo sopra la fama rotazione, per cui si fa in modo che piccoli gruppi, tipo di 30-40 prigionieri, effettuano questo sopra la fame, poi finiscono loro, incomincia un altro gruppo, sempre, sì, della stessa entità, in questo modo, sia per garantire, diciamo, una lotta più duratura, sia anche per, chiaramente, per riuscire a reggere, per non massacrarsi, l'impatto, sì, esatto, certo. E comunque, diciamo che c'è un grandissimo appoggio da parte del movimento fuori, sia, sì, proprio della popolazione, ma anche del movimento politico di solidarietà, compreso ovviamente i familiari, e le varie organizzazioni che sostengono moltissimo questi scioperi, questa lotta, e la, diciamo che proprio la lotta dei prigionieri è proprio parte della lotta del popolo palestinese di liberazione, certo. È un tutt'uno. Sì, infatti questo aspetto è importante, perché appunto diciamo la forza dei prigionieri nelle carceri, la lotta dei prigionieri nelle carceri ha una forza propulsiva rispetto al resto delle lotte, no? Sì, sì, naturalmente. Diciamo che la cosa è dialettica, nel senso che anche chiaramente la lotta fuori, certo, dà forza ai prigionieri. Dentro, teniamo presente che lì adesso, anche quando, che so, per esempio il 31 ottobre hanno ripreso lo sciopero della fame contro la detenzione amministrativa che avevano interrotto il 13 ottobre. Sì. Quindi anche quando lo interrompono non è mai un'interruzione definitiva, certo. Sono già organizzati in modo tale che riprendono lo sciopero della fame, e l'obiettivo è sempre quello lì, in particolare proprio dell'eliminazione della legge sulla detenzione amministrativa. Certo. Poi lo Stato sionista reagisce chiaramente in maniera brutale a questo, no? Sì, lì la repressione è fortissima, sia nelle carceri, sia anche ai solidali fuori, all'esterno. Sì. E, però è molto vasta la mobilitazione, sì, sì. E poi una particolarità della lotta palestinese è che è internazionale, nel senso che davvero poi ci sono mobilitazioni a sostegno dei prigionieri lì, dagli Stati Uniti all'Europa, un po' dappertutto, sì, sì. E con mobilitazioni, azioni, cortei avanti alle ambasciate, in generale comunque fanno sentire molto il loro sostegno, e ci sono poi chiaramente organizzazioni di solidarietà con i prigionieri. Una delle più importanti è Samidun, che è un'organizzazione internazionale che è attivissima in sostegno ai prigionieri palestinesi, e chiaramente quando ci sono queste lotte, e quando sono in corso questo sciopero della fame, mobilita molto. Certo. E un'altra cosa, diciamo, interessante, sì, secondo me, è che la lotta è, in questo momento, e in particolare del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina. Sì. No? E l'organizzazione ha chiaramente anche in carcere dei militanti, sì, e in questo periodo, diciamo da settembre in poi, sono particolarmente loro che costituiscono un po' la sinistra palestinese, sono loro che hanno dato questo nuovo impulso a questa lotta. E la cosa va sempre poi in dialettica con la lotta fuori, perché è molto attiva in questo momento anche la lotta all'esterno. Proprio in generale per la liberazione della Palestina, sì, che ha sempre comunque il contenuto dei prigionieri. E ci sono in questi mesi, in questi anni, ci sono state tantissime mobilitazioni anche in sostegno di Ahmad Sadat, sì, che è il segretario dell'FPLP, che è in carcere, ha avuto una condanna a 30 anni, sì, per attività contro Israele. Proprio l'accusa proprio è quella, insomma, cioè, diciamo, è vaga, è generica, ma nello stesso tempo però è stata appunto, insomma, di una certa, è pesante, insomma, questa, certo, questa condanna. E anche lì c'è una mobilitazione sempre molto forte tutti gli anni del popolo palestinese, delle organizzazioni sia di familiari ma anche organizzazioni di sostegno, e anche l'organizzazione che accennavo prima, Samidun, sì, è sempre presente rispetto alla solidarietà appunto a Ahmad Sadat. Un'altra figura molto importante, molto centrale della lotta palestinese, ma non solo, anche della lotta proprio antiimperialista, sì, è George Ibrahim Abdallah, sì, che e in carcere invece lui in Francia, sì. In carcere in Francia dall'84, uh-huh. e lui è stato un militante del Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, sì. Poi in seguito ha insieme all'organizzazione FARL, sarebbe Frazione Armata Rivoluzionaria Libanesi, sì. ha condotto la lotta contro l'imperialismo proprio in Occidente, a Parigi, mm-hmm. ci sono state delle azioni di cui è stato accusato, che diciamo l'hanno è stato condannato all'ergastolo, e sì. Giorgio Bemdallah, pur essendo in Francia detenuto, il carcere di Lannemezan, è popolare in una maniera incredibile, straordinaria, nei territori occupati, nel Maghreb, ci sono sempre mobilitazioni a suo sostegno, e lui effettua sempre delle lotte in solidarietà ai prigionieri palestinesi, tutte le volte, anche adesso, quando sì. c'è stata la quest'ultima lotta che è partita da settembre 2022, sì. anche lui ha effettuato uno sciopero della fame in solidarietà, e ha proprio dichiarato che lui era solidale con i prigionieri in lotta contro la detenzione amministrativa. Certo. E per Giorgio Abdallah c'è tutto un movimento di solidarietà che si muove in Francia in particolare, perché è detenuto lì, però ha acquisito una dimensione internazionale, ci sono sempre manifestazioni, azioni in Stati Uniti, Canada, mm-hmm. in Italia, in Germania ed altri paesi, Belgio, Svizzera, e si è riusciti a sempre collegare quindi la sua posizione politica di comunista, antiimperialista e per la lotta del popolo palestinese, collegare con tutto il contesto internazionale, perché lui ha sempre solidarizzato con i prigionieri che sono turchi, nel periodo in cui i turchi sono stati molto attivi con delle lotte contro l'isolamento carcerario, sì. Contro le celle tipo F in particolare, uh-huh. e oppure per esempio quando i prigionieri in Grecia come Pola Rupa e Nikos sì. Mazziotis, uh-huh. di lotta rivoluzionaria, sì. hanno effettuato delle lotte, lui in solidarietà ha sempre partecipato facendo degli scioperi della fame, sì, sì. E a proposito di Mazziotis e di Pola Rupa, sì. e di questi giorni, un comunicato che hanno fatto in solidarietà con Alfredo Cospito, sì. col compagno Alfredo, certo. e è proprio di questi giorni il loro comunicato in cui fanno proprio un'analisi dell'isolamento carcerario, ed è molto interessante questo comunicato, perché sostanzialmente fa un po' una storia dei meccanismi repressivi contro i prigionieri rivoluzionari, sì. e parte dall'applicazione dei regimi di isolamento già negli Stati Uniti negli anni 60 contro il Black Panther Party, sì. mm-hmm. e da lì poi cita l'isolamento in Germania con il carcere di Stammheim contro i compagni sì. della RAF, e così via, il FIES in Spagna, anche in Grecia ci sono state le celle di tipo C, che anche uh-huh. lì è una forma di isolamento, e quindi c'è un certo, diciamo, collegamento, una sì. certa solidarietà internazionale che è molto importante, e va chiaramente sviluppata sia a livello italiano che anche a livello internazionale. Certo. Mi viene in mente di chiederti sì. Relativamente sì. proprio allo sciopero della fame e all'atteggiamento, diciamo, degli stati, no? di fronte a questa sì. forma estrema di lotta che sì. appunto utilizza la propria esistenza, il proprio corpo. Sì. Lo Stato di Israele prevede il nutrimento forzato? L'alimentazione forzata? Guarda, ci sono stati dei casi. Sì, perché appunto questo so che ci sono stati, ma sì. non sapevo se era... perché dovevano legalizzarla, da quello che so io. Sì, allora, quello che succede comunque è che in linea di massima l'alimentazione forzata avviene in periodi, diciamo, successivi all'inizio, diciamo, cioè quando lo sciopero della fame è già da parecchio tempo, certo, in atto. Però non è una pratica legale, diciamo. Dicevo, però quindi questa strategia di fare lo sciopero della fame, per esempio, per 10 giorni, per 20 sì, giorni, poi interromperlo, poi partono gli altri, e diciamo riesce anche un po' ad aggirare questo problema. Mentre invece, per esempio, in Turchia, scusa se ti interrompo, i compagni turchi, per esempio, che hanno fatto numerosi scioperi della fame, anche proprio fino alla morte, e nel 2000 sono morti alcune 110 prigionieri, che è un numero enorme, e anche successivamente, anche attualmente, gli scioperi della fame fino alla morte durano anche un anno, e lì allora lo Stato interviene sempre poi con l'alimentazione forzata, e qui invece si riesce, diciamo, un po' con questo metodo a subpassare questa cosa terribile, terrificante, che è l'alimentazione forzata. Sì. Sì. E comunque, oltre alla questione dei prigionieri palestinesi, per noi è molto importante questo presidio, che fa parte di un insieme sia noi che la Panettiera Occupata, anche in altre occasioni abbiamo svolto delle mobilitazioni a sostegno di tutti i prigionieri, e compreso soprattutto quindi quelli italiani, sia i prigionieri in 41 bis, ma anche tutti gli altri prigionieri, anche quelli in alta sorveglianza, e questa attività, quindi anche questo presidio è parte di questa attività, e quindi abbiamo focalizziamo, oltre ai prigionieri palestinesi, anche la solidarietà rispetto, in questo momento qua in particolare, di solidarietà ad Alfredo e a tutti i prigionieri che sono in sciopero della fame in questo momento, e poi a tutti i prigionieri storici e politici che sono in carcere, tre sono in 41 bis dal 2005, quindi sono 17 anni, e sono i compagni Marco Mezzasalma, che sta ad Opera in provincia di Milano nel carcere, poi c'è Nadia Lioce, che è all'Aquila, e Roberto Morandi, che è a Spoleto. Ecco. E solidarietà che chiaramente poi allarghiamo anche agli altri prigionieri politici, che sono sia comunisti che anarchici, che sono in carcere, alcuni anche da 40 anni. Sì, sì. E a questo proposito è molto importante stata la solidarietà che ha dimostrato il compagno Nicola De Maria, che ha fatto questa fermata all'aria in solidarietà alla lotta di Alfredo, come anche in altre città all'estero si sta incominciando a diffondere questa solidarietà. Ci sono stati dei presidi, c'è stata una manifestazione a Bruxelles sotto al consolato italiano, ci sono state iniziative a Dresda in Germania, ad Atene, a Berlino si sta incominciando un po' a sviluppare questa solidarietà sia dentro che fuori, si sta un po' estendendo. E poi dobbiamo pensare che il momento, insomma, che stiamo attraversando, dobbiamo inquadrare sempre questi aspetti anche nella fase attuale, che è quella che vede l'Italia impegnata in ambito NATO nella guerra in Ucraina, e nell'invio di armi e di denaro a Zelensky, e quindi tutto questo coinvolgimento dell'imperialismo italiano fa sì poi che anche all'interno c'è un fronte interno che vede, insomma, una repressione sempre più estesa, sia a livello, diciamo, all'esterno, quindi rispetto agli studenti, rispetto alle operazioni repressive contro il SICOBAS di qualche mese fa, e poi anche, appunto, anche in carcere c'è questa situazione, quindi vogliamo sviluppare questo presidio è solo una parte ovviamente di questo lavoro, un fronte unito contro, appunto, contro la guerra imperialista, a sostegno dei prigionieri, contro il 41 bis, contro la repressione, e sviluppare il più possibile, quindi allargare, diciamo, questa solidarietà, questa iniziativa. Bene, io a questo proposito ho sotto gli occhi appunto la dichiarazione di Abdallah, di Giorgio Abdallah, che ha fatto il 22 ottobre scorso, era la manifestazione per la sua liberazione, dove lui dice, saluta così all'alba di questo 39esimo anno di prigionia, e dice: cari compagni, cari amici, amiche, le contraddizioni interimperialiste occupano il primo posto sulla scena internazionale nel contesto della crisi globale del sistema capitalista globalizzato. Vanno inasprendosi sempre e si diffondono a livello planetario, e come sempre in simili circostanze la propaganda imperialista è in pieno svolgimento. Sembra inutile soffermarsi a lungo sulle pseudo-argomentazioni dei malvagi aggressori e sui poveri attaccati. Compagni, solo non perdiamo di vista il fatto che le guerre imperialiste e interimperialiste rientrano in qualche modo nel codice genetico del capitalismo. E avanti, per dire, sì, che così abbiamo usato le sue parole, visto che hanno fatto questa dichiarazione in occasione della manifestazione per lui. Sì, esatto, e poi tutti questi anni ha sempre solidarizzato con i prigionieri, è una cosa importante che è riuscito sempre a fare: dal carcere di Lanno Mezzano, dove è detenuto, è riuscito sempre a coinvolgere anche altri prigionieri che ci sono lì, politici. Lì in quel carcere ci sono per esempio ancora dei prigionieri baschi. Poi ci sono dei prigionieri di altre nazionalità, e lui è riuscito a coinvolgerli in mobilitazioni a sostegno di altri prigionieri rivoluzionari che erano in lotta non solo appunto nei territori occupati, in Palestina, a Gaza, ma anche in Spagna, in Grecia, e questa cosa, anche in Germania, questa cosa qui ha avuto sempre una grande eco. Si è riusciti, perché con questi contenuti si è riuscito a fare questi collegamenti e cercare di sviluppare, insomma, questa rete di solidarietà. E lui, appunto, come ho detto prima, è molto conosciuto, è molto popolare, è considerato proprio un eroe da parte del popolo palestinese. E quando ci sono le manifestazioni per la liberazione della Palestina, loro comunque portano il quadro e le parole d'ordine anche di Giorgio Abdallah, a dimostrazione di come c'è questa internità di questi prigionieri nel popolo, parte integrante del popolo palestinese. Bene, questo è importante. Bene, niente, rilanciamo allora l'appuntamento, anche se un po' lontani, ma insomma... No, certo, naturalmente. Comunque grazie ancora. Quindi sarà sabato 19, sarà giusto? Sabato 19 novembre alle 15:30, via Padova, angolo via Giacosa. E appunto invitiamo tutti a partecipare, comunque a sostenere questi compagni prigionieri. Ti ringrazio molto del contributo. Grazie mille. Alla prossima, ciao ciao. Grazie, ciao. Bene, teniamo in sottofondo questa band che abbiamo presentato prima dell'intervento. Loro sono Le Tormenta di Forlì, dal loro 7 pollici Resest, uscito nel 2007. E appunto lo sfumiamo perché così andiamo a presentare il prossimo ascolto, che è una band che è stata una band storica del punk hardcore nazionale, italiano, ma non solo, ovviamente anche internazionale. Loro sono i Kina di Aosta e praticamente ci ascoltiamo dei brani dal loro primo LP Irreale e Realtà, che tra l'altro sono presi da un CD che hanno pubblicato alla fine degli anni 90, dove hanno appunto messo in digitale i loro primi due album, i Kina di Aosta, ovvero Irreale e Realtà e Cercando. Parlavamo appunto con il compagno di Milano di questa iniziativa milanese di sabato 19 novembre, in solidarietà con i prigionieri palestinesi, ma anche con i prigionieri italiani sottoposti appunto a 41 bis e in generale nei circuiti di alta sicurezza. E sempre a Milano, anche il giorno dopo, cioè il 20 novembre, ci sarà un presidio al carcere di Opera, carcere appunto dove alle ore 14, dove c'è una sezione di 41 bis, un presidio appunto a sostegno di Alfredo, però anche di Juan, di Ivan, di Anna, che lo stanno sostenendo a loro volta, essendo entrati insomma in sciopero della fame anche loro. E appunto le iniziative solidali con Alfredo e con gli altri e le altre prigioniere in lotta si moltiplicano, insomma in queste settimane ce n'è tantissime, dalle iniziative più semplici, striscioni, scritte, volantinaggi, attacchinaggi, ad azioni dirette svariate, non solo in Italia, anche in giro per il mondo. E poi varie iniziative più strutturate, insomma. Beh, ricordo alcune che avverranno in questi giorni. Di Milano ho detto, poi ci sarà a Bologna, ci saranno delle letture contro il 41 bis, poi a Sassari un presidio al carcere di Bancali, appunto dove Alfredo si trova prigioniero. Questo è un presidio importante, si terrà sempre domenica 20 novembre alle ore 16. E i compagni che lo organizzano vorrebbero, attraverso l'impianto di amplificazione, far arrivare ad Alfredo i pensieri di amici e compagni che in tutti questi mesi gli sono stati negati, essendo lui in questo regime di tortura. Per questo i compagni lanciano un appello a inviare quello che vorreste dire ad Alfredo all'indirizzo, ve lo dico, Eva Liber 2@inventati.org. Quindi se chiunque voglia, insomma, dire qualcosa ad Alfredo, scrivendo a questo indirizzo evaliber2@inventati.org, poi i compagni di Sassari proveranno attraverso insomma l'amplificazione delle voci, proveranno a far arrivare almeno qualcosa, speriamo che sia possibile. E poi ricordo sabato 26 novembre a Trento un presidio sempre in solidarietà con Alfredo e gli altri a Piazza d'Arogno, e in Trentino ci saranno altre varie iniziative con Daniele Ratti, presentazioni, insomma la presentazione di un libro. Nello specifico, sabato 19 ci sarà presentato a Rovereto al Circolo Cabana. E il titolo è significativo: La mano che stritola è quella dello Stato. Dal 1970 tante vittime senza giustizia, dimenticate nelle carceri, nelle caserme, nelle periferie. Sappiamo chi è stato. E appunto Daniele Ratti è coautore di questo libro che verrà presentato. E vabbè, mandiamo ancora un po' di musica e poi parliamo anche di iniziative qua da noi. intanto stiamo ascoltando questa band di Milano, loro sono i Tenia e questo è il loro album uscito alcuni mesi fa che si intitola Altrove. Prima mi sono dimenticata di dire una cosa, cioè di leggervi una dichiarazione, diciamo così, poetica di Toby Shawn, prigioniero di lunga detenzione nelle carceri del Regno Unito, che appunto dice: osservando la forza della pioggia si può conoscere la grandezza del dragone e osservando il fiorire dei fiori si può conoscere la profondità dello stagno. E poi così ci dice, insomma, che solidarizza naturalmente con i prigionieri, con Alfredo e gli altri prigionieri in sciopero della fame, ma in considerazione delle sue condizioni di salute, anche su consiglio degli altri suoi compagni di prigionia, aderisce allo sciopero della fame il mercoledì e la domenica e come ulteriore gesto si rifiuta di lavorare per il carcere, come ulteriore gesto solidale con Alfredo e gli altri. E poi dice così, in questo modo suo, con il cervo, il cinghiale, il gufo e il giaguaro. We'll be right back. sempre su Zardins Magnetics. Allora, già lo scorso giovedì avevamo parlato di Leo di Gomez Rodriguez, questo ragazzo di 22 anni che il 7 di novembre scorso è stato trovato morto nel carcere di Udine, di Via Spalato. E appunto, in solidarietà ai detenuti, quali tra l'altro in quella sera, insomma, hanno così protestato attraverso una battitura, e abbiamo organizzato appunto in solidarietà con i detenuti e anche per ricordare questo ennesimo morto di Stato, un presidio sabato scorso appunto sotto il carcere di Udine. Un presidio in cui abbiamo cercato di dialogare, insomma, con i prigionieri, e abbiamo fatto anche noi delle battiture così di solidali, anche a ricordare queste, non solo Leudi ma anche gli altri detenuti che sono morti in quel carcere. E va detto che diciamo c'era una presenza abbastanza fastidiosa di polizia, numerosi, ma soprattutto c'era un atteggiamento sprezzante da parte della polizia, sia la polizia questurini e carabinieri, sia anche la polizia penitenziaria. Cioè, l'impressione è stata un po' quella di così un atteggiamento spavaldo e sprezzante, una cosa molto molto fastidiosa. E tra l'altro, appunto, la prima ora, diciamo, di presidio c'è stata la possibilità di dialogare abbastanza con i prigionieri, in quanto rispondevano, poi pian piano si è capito, insomma, che erano stati in qualche maniera chiusi dentro, perché si faceva molta fatica a sentire le voci. Comunque il presidio è stato fatto, chiaramente non finisce qui, torneremo come abbiamo già fatto in passato. È stato importante, insomma, per noi subito appunto andare sotto il carcere, vista la situazione. E relativamente a questa morte, domenica è uscito un articolo su Udine Today, dove vengono interpellate i familiari di questo giovane ragazzo, in particolare la madre e la compagna, la madre che non crede al suicidio di questo ragazzo, che era un ragazzo comunque ribelle, non remissivo. E appunto la mamma dice: ma strano che mi abbiano avvisata appena il giorno dopo, non riesce a capire il motivo di questo. E tra l'altro il 15 novembre, cioè lunedì, dovrebbe essere stata fatta l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica. E appunto sia la mamma quindi che la compagna dicono: ma il giorno dopo avrebbe avuto un'udienza importante, perché mai si sarebbe dovuto togliere la vita quando c'era ancora la speranza che tornasse ai domiciliari? E poi avevano anche parlato, insomma, di ricominciare una nuova vita, perché mai avrebbe scelto di farla finita? Difatti apprendiamo appunto che il giorno dopo il decesso Leudi si sarebbe dovuto presentare in tribunale a Trieste. In quell'aula invece il ragazzo non è mai arrivato, perché appunto muore nel pomeriggio di lunedì 7 novembre. E la compagna dice che l'aveva sentito qualche ora prima al telefono, avrebbero dovuto fare un'ora di videochiamata, poi invece la videochiamata salta, insomma, e viene fatta solamente una breve telefonata di pochi minuti. E quindi, insomma, lei ha pensato che non volessero farglielo vedere, e anche questo è una cosa abbastanza inquietante, visto che comunque il ragazzo aveva avuto degli scontri con delle guardie all'interno del carcere. E insomma, la madre appunto dice che passano le ore, ma lei non sa ancora niente, verrà avvisata del decesso solamente il giorno dopo. Ho telefonato per vedere il corpo, ma mi è stato detto che non serviva andare a Udine, perché una volta trasferito il corpo a Trieste per la sepoltura, lì avrei potuto stare con lui in una stanza quanto volevo. Ho risposto che ero già in viaggio e che non potevo aspettare. Quindi la mamma di Leudi arriva in via Spalato l'8 novembre e Leudi è lì davanti ai suoi occhi. Hanno detto che si è impiccato con un lenzuolo, ma quello che ho visto io non è un segno di un lenzuolo. Nella parte sinistra del collo c'è una macchia di sangue, ma io non ho mai visto nessun impiccato sanguinare da dietro al collo. Mi ha messo tanto in dubbio. La signora Lucrezia non si dà pace e focalizza la sua testimonianza su un dettaglio importante. Lui è morto lunedì alle 15, ma io sono stata avvisata martedì pomeriggio, esattamente 24 ore dopo. Perché, mi chiedo, perché non mi hanno avvisata subito? Qual è la verità di tutto questo? E, insomma, la famiglia quindi non si accontenta, diciamo, della verità ufficiale appena, insomma, che dal carcere è uscita, non appena è successa questa morte. Ancora la compagna, che tra l'altro sia la mamma che la compagna hanno contattato anche l'associazione Antigone proprio per, diciamo, chiedere sostegno per andare avanti su questa faccenda. E secondo le testimonianze che Leudi aveva condiviso con la sua compagna al telefono, il giovane domenicano aveva chiesto più volte ai secondini di essere spostato dalla cella che occupava, in quanto non andava d'accordo con il compagno di cella, che insomma gli chiedeva soldi, voleva il suo tabacco, insomma la convivenza non era liscia, non era semplice. E quando Leudi chiede di essere spostato di cella, la risposta che arriva è parte di un gergo che si impara tra le stelline delle uniformi, retaggio di anacronistici cameratismi, e questo lo dice Udine Today. Eppure evidentemente ancora in voga tra le carceri e le caserme. Gli risponde la guardia: il compagno di cella è un problema tuo. Leudi allora reagisce male a quella frase e sfoga la sua rabbia tirando un calcio ad una bomboletta di gas di quelle da campeggio. Da lì viene condotto in isolamento, appunto, dicono, e da lì viene fuori il discorso che era una persona pericolosa, eccetera. Però ci dice anche la sua compagna: da quando era arrivato a Udine mi diceva che la situazione era peggiorata, l'ambiente era poco permissivo e molto crudo. Leudi prima veniva dal carcere di Trieste, che non è proprio, sì, un carcere leggero, ma... di che cosa aveva paura Leudi? Non veniva ascoltato, mi diceva sempre che gli rispondevano male, si sentiva preso di mira. Ecco, questo insomma... E poi ci dice ancora, non si arrendeva mai, che questo ragazzo non si arrendeva mai. Le persone che incontro non credono a questa storia del suicidio. E conclude la madre: voglio che salti fuori la verità per darmi pace, anche se so che non sarò mai più tranquilla in vita mia. Io voglio indagare, voglio capire se lui si è suicidato, se qualcuno l'ha portato al suicidio o se qualcuno l'ha ammazzato. E chiaramente noi non possiamo sapere, possiamo dire con certezza che ogni morto ogni morte che avviene all'interno di un carcere o comunque di un'istituzione totale non è, è un morto, diciamo, di stato, in quanto anche se uno si suicida, se è nella sua vita libera, diciamo, ha la libertà anche di darsi la morte. In una struttura del genere chiaramente la libertà non esiste, quindi anche la libertà di morte è una cosa un po' controversa. Comunque di sicuro queste testimonianze di queste parenti, di questi familiari di Leudi rimettono, diciamo, il dito nella piaga delle condizioni di vita dei detenuti a Udine, che viene definito un carcere crudo. E sì, questo, tutti i detenuti con i quali abbiamo avuto relazioni epistolari hanno detto la stessa cosa, insomma, di un trattamento non umano, di una incuria generale nel trattamento delle persone, ma comunque anche di un accanimento, ecco, soprattutto su quelli che non piegano la testa, che non accettano qualsiasi angheria. E vabbè, ci sembrava insomma importante dare questo aggiornamento. Chiaramente poi approfondiremo ulteriormente questa vicenda. Ecco, è andato un altro brano per questa band di Bologna, dell'area di Bologna, loro il gruppo anarcofemminista Le Pile, e questo è il loro album, è uscito nel 2020, in primavera 2020, è Weapons I've Heard, e rimaniamo all'ascolto di queste file. Bene, sulle note appunto di questa band bolognese Le Hile, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle 21:30. Ricordo come sempre i nostri contatti per chi volesse, insomma, ovviamente scriverci per qualsiasi motivo, insomma, la nostra posta elettronica è liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure se volete scriverci in forma cartacea, potete tranquillamente farlo intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto anche questo, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre, tutta questa puntata che abbiamo trasmesso oggi, ma anche tutte quelle avvenute nelle settimane passate, potete riascoltarla andando su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Inoltre, domani chi vuole andare dalle ore 17 saremo anche in onda su Radiazione. Bene, allora, questo è tutto, ci salutiamo, vi faccio ascoltare ancora un'ultima band, sono di Ferrara, loro sono i Riot Squad, e questo è un loro CD, insomma una prima uscita, tra l'altro datata 2020, comunque una prima loro uscita, una specie di promo CD che si chiama Virtue Can Shine. Loro sono i Riot Squad, ciao a tutti e al prossimo giovedì.